Siamo tutti pronti? Mi pare. Iniziamo, sì. Dai, allora, sennò si scoscia la pasta. Esatto. Benvenuti a tutti, nuova puntata della serie Ti racconto una storia, il volo dell'Aquila, trasmettendo dalla Galleria San Lorenzo in via Isidoro a Montevarchi e ringraziando come al solito Stefano Neri, il nostro santo subito, per la concessione di questo spazio. Fumino, questa sera abbiamo con noi un ospite che tra l'altro anche Stefano Neri in puntate precedenti ci ha raccontato come una delle vere bandiere della storia del Montevarchi Calcio. È vero Julian, l'ospite di stasera è un ospite di cui hanno già anche parlato alcuni ospiti in trasmissione, è un ospite di tutto rispetto con un passato ed una carriera anche nelle file del Montevarchi ma anche altrove invidiabile e adesso ce la racconterà. Benvenuto Massimiliano Lucchesini. Buonasera. Intanto salutiamo anche il regista di stasera che è Guy Ricci. Allora Massimiliano, iniziamo a sfogliare gli album dei ricordi della tua carriera. Magari inizi a raccontarci un po' come è nata la tua passione per il calcio. Tu sei originario di Pisa e quindi i primi anni della tua carriera fino ad arrivare a Montevarchi. Ah, io ho iniziato, ero un ragazzino, giocavo nel cortile. Purtroppo dovevo andare alla Juventus, infatti io sono per l'Inter. E poi non ne fecero di nulla e iniziai la carriera mia nel Pisa. Dai ragazzi, una volta c'erano le riserve, poi esordì in C, due partite, che era la C di una volta, tempi a pensare, Pisa aveva Turatti, De Paoli, Malavasi, gente che veniva, quei tempi venivano dalla A e giocavano in C. Come. E poi ho iniziato ad andare all'Adderello in Serie D in prestito da Pisa, poi sono stata a Macerata. Poi sono stato a Siena e poi il 12 di fondo arrivai a Montevarchi e qui ho iniziato, ci giocavo 7 anni dalla promozione fino alla C. E in fase di preparazione della puntata ci raccontavi che all'inizio della tua esperienza a Montevarchi facevi in su e in giù da Pisa con il treno, in barba forse a tutti i pendolari dell'epoca, non so se i treni erano in orario oppure se erano viaggi della speranza all'epoca. Se parli dei treni c'era ancora quelli di legno, anzi ho trovato anche tu una le valigie legate all'elastici, nell'anni lì erano... Difatti ora vi racconto un fatto, mi ricordo quando era a Siena, il segretario mi disse dovessi andare a Torre Annunziata. A quei tempi io giocavo, mi stavo a giocare, partivo. Fessi questa valigia, partì, montai in treno, arrivai a Napoli, certo. E tutto mi viaggio un piedi dalla gente, c'era. Arrivai lì, non c'era nemmeno nessuna abitante. Insomma, mi ricordo che poi ritornai a Siena e forse è stato meglio così. E poi sono venuto a Montevarchi. E appunto durante questi viaggi verso Montevarchi da Pisa ad un certo punto parlasti con il presidentissimo di allora che era Vasco Farolfi. Vasco Farolfi mi disse presidente qui io venizio in giù insomma è dura, se mi tenete qui bene, se no chiudo. E invece poi sì, mi tenevano qui e poi sì, io sono un carattere un po'. C'ho tanti amici, Montevarchi poi un ambiente era, mi volano bene e di fatti poi ci ho trovato anche moglie. E fermandoci un attimo proprio sulla figura di Vasco Farolfi, perché l'abbiamo indagata con vari ospiti che abbiamo avuto fino a qua, che ricordi hai di Vasco? Che uomo era in quegli anni lì? Qual era la sua anche autorità o autorevolezza dentro la società? Vasco era uno che a parte quello che mi ricordo quando mi vennero a prendere a Siena, mi portò. Mi lasciarono in via a Roma lì e c'era Vasco, mi fa presidente, e qui io vi vado a casa, non c'ho nulla, mi fa, non ti preoccupare, ora non posso dire la cifra, mi dette i soldi, e poi Vasco era fatto così, come scala e tutti i presidenti erano della gente molto in gamba. E siccome la nostra trasmissione indaga la montevarchinità e diciamo che la montevarchinità rispetto alla tua storia inizia proprio da questo momento in cui tu arrivasti a Montevarchi. Prima hai detto che i montevarchini ti hanno voluto un grande bene e inoltre ci hai pure trovato moglie e quindi ancora oggi dopo 50 anni vivi a Montevarchi e i Montevarchini di 50 anni fa rispetto ai Montevarchini di oggi, la Montevarchi di 50 anni fa rispetto alla Montevarchi di oggi, che giudizio dai? Ma io senti, ora io guardo le partite, così vedo, vengo magari a volte vado anche in curva e c'è un tifo, però ai tempi nostri erano uno spettacolo, perché io mi ricordo, infatti mi chiamava Luca, quando, le volte mentre dribblavo, perché ero un dribblatore accanito, e dribblavo, mi accompagnavano anche nei dribbli, per dire, ma sono stata della gente spettacolare. E anche rispetto alle esperienze che aveva avuto in precedenza, quindi all'Arderello, cioè com'era la situazione poi? Cioè, arrivato a Montevarchi, hai sentito una differenza a livello di calore, a livello di partecipazione? Infatti quando arrivo io c'era ancora l'alberi dalla parte di là, non c'era ancora le tribune, però cioè, il pubblico lo sentivi proprio, cioè proprio lo sentivi come fosse in campo, via. Era un pubblico che sentiva molto la partita. Questo è un discorso, Fumino, che abbiamo già fatto, nel senso che magari ci auguriamo possa avvenire anche un domani, questa vicinanza del pubblico verso il campo. Però posso dire una cosa, il problema secondo me è anche lì, che si sentiva che con quella gradinata vuota è un po' desolante. Secondo me quando io arrivo allo stadio e vedo questa tribuna vuota e questi ragazzi che fanno un tipo di... Da una parte mi sembra un po'... cioè anche in campo lo senti... Io mi ricordo, giravo alla sinistra, sulla faccia, io dalla tribuna sentivo la spinta che ti dava qui, capito? Non so perché, qui bisogna trovare, non so, una soluzione, non so come potrei dire. È un po' l'augurio che abbiamo raccolto in queste puntate, perché comunque l'idea di avere un pubblico più vicino al campo, magari un domani, è una cosa che potrebbe effettivamente funzionare secondo molti. Questo derby, insomma, era un bel vantaggio, però... E tornando alla Montevarchi di 50 anni fa, altri ospiti in precedenza ci hanno raccontato che il calore dei Montevarchini era eccezionale rispetto anche e soprattutto forse a chi come te arrivava da fuori Montevarchi, e ci hanno raccontato di calciatori frequentemente ospitati in casa a mangiare da quello o da quell'altro. Capitava anche a te? Sì, sì, mi è successo. Andava io, magari questo Roma Mute, andava da uno... Si andava a mangiare ogni tanto a casa sua, era una cosa normale. Come per esempio passavo per fare una battuta in via Roma al corso, c'era il babbo del presidente nostro, il Libi, che aveva la macelleria, mi chiamava: Luca, vieni, ti do una bistecca. Per dire, no, era così il calcio, madonna. Una cosa spettacolare. Quindi anche Lucchesini ci conferma la generosità e la cordialità dei Montevarchini di allora. E adesso iniziamo ad andare un attimino più nello specifico del tuo giocato a Montevarchi, perché insomma ne hai viste delle belle, delle brutte probabilmente, ma anche delle belle. Come si fa a non citare la partita bellissima, quella che molti ragazzi della mia generazione, della nostra generazione, si sognerebbero di vedere per la soddisfazione di vincere una partita alla Monetina, uno spareggio importantissimo giocato a Firenze, mi pare, contro il Borgo San Lorenzo. 12.000 persone. 12.000 spettatori, e più o meno quanti da Montevarchi? Tanti. Poi sarei, a quei tempi non era mia, le divideva, ne era mescolati. Però è impressionante vedere, ti giravi quella tribuna a Firenze, e logico, la tribuna aperta, enorme, vedevi, era anche caldo, vedevi tutto il bianco, spettacolare. E com'è che si arriva a tirare la Monetina? Allora te lo spiego. Si arriva dopo tempi supplementari, non ci riuscì a fare gol e si andava supplementare. Ormai ti giocavi un campionato alla moneta, l'arbitro tirava la moneta e ne si fece la Wurzi. Ma il sorteggio, nello specifico, viene fatto, perché siccome gira un mito per cui il lancio della monetina verrebbe fatto negli spogliatoi, in realtà viene fatto in campo. No, lì più fatta in campo. E comunque, Fumino, si parla veramente di altre epoche, perché comunque la monetina è una cosa che penso sia stata superata da decenni probabilmente. Non c'erano ancora i calci di rigore, è per questo che fu fatta la monetina. No, non c'era. Dopo supplementari e si vince stando in Serie D. Mentre invece ci raccontavi sempre in fase di presentazione della puntata che eri anche in quel famoso Montevarchi che vinse a Genova al Marassi contro il Genoa. Entrai nel secondo tempo quando il Vincini fece gol, una domanda che mi sorge spontanea. Per un calciatore che ha militato in Serie D, tu avevi anche visto i campi di Serie C, però che effetto fa, che effetto vi fece o ti fece a te particolarmente il fatto di giocare in uno stadio come Marassi? Ora, a prescindere, io mi sembra che avevo già giocato a Firenze, negli stadi, ora Marassi era un po' più fatto all'inglese, diciamo. Era impressionante, perché poi tanto più che loro qui vinsero, a noi si vinse là, però purtroppo poi mi sembra si retrocesse, e lì il male, non ci riuscì a salvarsi. Purtroppo non servì la vittoria per salvarsi. Beh, è un po' come quando anni dopo si è vinto a Firenze contro la Fiorentina, se non erro anche quello fu un campionato piuttosto sfortunato, dove non si retrocesse, ma insomma si arrivò lì o si venne ripescati addirittura, non so. Quindi magari la grande partita singola non sempre coincide con la super stagione da promozione, diciamo. E ti ricordi i festeggiamenti che vi furono riservati al ritorno da Genova? Ma effettivamente non mi ricordo, però noi si fece il loggio, era vinto, ma poi sai, quando l'entusiasmo si spegne, lo fai lì per lì, poi Per quanto riguarda la tua proprio il tuo giocato, quello, gli anni in cui hai giocato, perché poi dopo Montevarchi addirittura ci hai detto che sei stato 4 anni a Terranova, arrivando dalla seconda categoria alla Serie D, quindi probabilmente eri anche promozione, e poi si perse, mi sembra, una partita, e ci un po', cioè non si poteva andare in Serie D, ecco, fino a quasi la Serie D. Siete quasi arrivati in Serie D, e comunque questo significa che comunque il Lucchesini calciatore era anche un grande calciatore da un certo punto di vista. Ma che ruolo era il ruolo di Lucchesini? Ma i ruoli dove giocavo io chiamavano ali, e come ora, no? Ora fanno la zona, giocano in 3-4 linee, invece una volta c'era il libero alla sinistra. Lui si giocava con due ali e centravanti, che erano gli istanti ai tempi del Bardelli. Gli all'ala sinistra e lo Zavagli all'ala destra, era sì. E poi centrocampisti, tre difensori o libero. Le tue caratteristiche tecniche per cui sei stato apprezzato e sei ancora ricordato, evidentemente, quali erano effettivamente? Io avevo un difetto, che quando tiravo facevo quasi sempre gol. Era un bel difetto. Poi l'ho fatto anche sul calcio d'angolo, avevo un piede un po' strano. E qual è stato il gol che ti ha emozionato di più segnare? Ma mi ricordo un gol che ero sulla sinistra, tagliai tutta l'area sul campo, e poi da destra tirai e rimasi attaccato alla rete. Però mi ricordo la partita, fu così, visto, quando tirai di traverso, boom, e rimasi attaccato alla rete dentro. Comunque te, Massimiliano, hai giocato per o con Lupo Balleri, non so esattamente. No, giocato. Hai giocato anche con lui, sì. O con lui come allenatore? No, ho giocato con Lupo, perché il Lupo faceva il rigore e mi faceva vai Luca, vai a battere, e mi mandava a me. E visto che purtroppo, insomma, Balleri se n'è andato recentemente, se puoi raccontarci qualche aneddoto di lui, insomma. Era un grande. Quando lui aveva solo un vizio, che gli piaceva giocare a Kosovo, lui giocava a tutte le maniere, anche a tirare il cappello dentro, e lui ma era un fenomeno, poi era bravo. E tra un livornese come Balleri e un pisano come te c'era astio o meno? Ma sai, il calcio non si guarda via se uno è livornese, erano tutti livornesi. E una volta terminata la carriera da calciatore, quindi una volta appeso le scarpette al chiodo, hai comunque continuato a frequentare l'ambiente sportivo facendo l'allenatore. E questo tipo di esperienza rispetto a giocare, cosa ha di diverso? Cosa ti dava di differente? Ma vedi, fare l'allenatore, secondo me, a parte a tenere l'ambiente tutta, non è facile. Per esempio, io ho preso delle squadre in mano che erano belle retrocesse, e guarda caso io me l'hanno data in mano e mi riuscivo a salvare. Vuol dire che conta anche l'allenatore, è logico, poi sono c'è i giocatori, però squadre belle, cioè belle e morte, diciamo, e posso fare anche i nomi, tanto i Soci, i Bucini, per esempio, anche i Bucini, squadre belle, e sono riuscito a salvare. Vuol dire che l'allenatore ne conta. E hai anche allenato il settore giovanile delle squadre? A Montevarchi, poi ho allenato i, ora la chiamano Bardarno, i Figline, il Sansovino in Serie D, che purtroppo mando male perché mi dettero una squalifica di 4 mesi senza far nulla, mi ha rovinato un po' i piani. Vabbè, il Reggello, la zona mia allenava quasi di tutto. E siccome ci sarà probabilmente differenza fra allenare una squadra di uomini e allenare una squadra di ragazzi, cosa c'è di diverso e cosa preferivi fare? Ragazzi, io avevo dei ragazzini a Montevarchi tipo bravissimi, tipo Sorbi, tipo vuol dire via saperci fare, no? Mi dite devi essere duro, perché devi essere intelligenti e amministrarli bene. Avevo una squadra abbastanza bravi, era. Io invece ti volevo chiedere un parere, Massimiliano, proprio su quello che è evidentemente il passaggio per cui un giocatore decide di diventare allenatore. Aver giocato in campo facilita l'idea di gioco che poi bisogna avere per gestire una squadra dalla panchina? Certo, ogni allenatore ha le sue idee. Io poi feci il corso a Coverciano e lì ti insegnano più che altro, ti insegnano, se poi le idee devono essere tue, loro ti fanno, quando ti danno il tesserino pagando, perché non è che ti regali nulla, e te poi vai a allenare, ma allenare è te che sei, le tue idee, capito? È tutto lì. Però te sei stato anche allenatore giocatore, ad esempio, e sì. Quando sei allenatore giocatore, com'è che decidi di entrare in campo o meno? Io, qual è la spinta per cui uno... È facile, io ho fatto a Terranova, ho vinto, però... giocando, per tutto devi sbagliare meno te, perché ti dicono, poi sbagliavo degli allenatori, così che era, è anche più difficile, però anche a Terranova ho avuto dei ragazzi bravi, sì, che sono rimasto, purtroppo ci fregarono una partita fuori determinante, e ci fregò il campionato, se no se andava in Serie D, era un bel colpo, dalla seconda categoria alla Serie D. E un'ultima curiosità proprio su questa tua fase allenatore-giocatore. Te tendenzialmente iniziavi nell'undici titolare oppure ti inserivi nel secondo tempo o comunque all'occorrenza? No, no, io giocavo sempre, però non è facile, non ti credi sia facile di, perché a tempi mia non c'era tanti cambi come ora. Ecco, ora io ho detto fra me e te mi rimarrebbe più difficile perché c'è troppi cambi. A tempi mia non c'era questo problema. Ah, poi c'è un altro problema, il limite d'età è importante. Ora c'è il limite d'età. A tempi nostri non c'era limite d'età. Se tu sbagli uno e te, ti danno una partita persa e quella ti complica per un allenatore. E una volta definitivamente appeso tutto al chiodo, quindi prima le scarpette e poi il fischietto da allenatore, hai comunque continuato a frequentare lo stadio, il Brilliperi di Montevarchi, dove domenicalmente capita di vederti a seguire le sorti della squadra rossoblù. Il calcio di oggi, che effetto ti fa guardare il calcio di oggi rispetto a quello che giocavate voi? È vero, io a parte era forse il metodo di gioco, però mi domando delle volte e dico, madonna, io sarei curioso di tornare indietro e cacciare questi palloni a fanno ora, perché se c'è dei palloni, io l'ho visti, a tempi miei c'erano sì, però erano... Sarei curioso quello, per vedere come cacciavo la palla io, per vedere che effetto mi ha sto pallone, ecco, tutto lì. Beh, magari con questi palloni sarebbe stato più difficile fare un gol da calcio d'angolo, forse ne avresti fatti di più di quelli ne ha fatti, chissà. Io lo so, ma forse era più facile, perché quelli erano più pesi, forse il piede avevo io era più facile. In tutto quello che ci hai raccontato hai omesso forse la bandierina più importante che ti è capitato di mettere nella tua carriera calcistica. Adesso ci torniamo, perché e tu hai addirittura vestito la maglia della nazionale. Fino a questo momento nessun ospite aveva mai fatto tanto e tu invece sì. Allora raccontaci l'emozione della convocazione, gli allenamenti. Allora sì, allenamenti si convocavano a Coverciano e si andava lì e poi si davano la divisa tutte e si stava lì, si faceva allenamenti, eh? E poi mi ricordo la prima partita si giocò contro la Francia a Gorizia, e effettivamente quando sei, a parlarne ora mi viene i brividi, quando sei in fila e senti l'inno è una cosa in Italia, specialmente invece quando si giocò a Malaga con la Spagna, e insomma senti l'inno, è tremendo, ti trema le gambe. Poi si è giocata a Brest contro la Francia, c'erano 5 presenze, e si è giocata anche una con la Germania. E purtroppo poi passai professionista e non ero più dilettante e non giocai, se no ci poteva avere tante presenze. Perché comunque si trattava, dicevi, della nazionale under 18 e te... No, quella era l'Uniores, però lì poi non giocai, ma questa è quella dilettante. Ah, ok. La nazionale dilettanti. Pensa ai dilettanti anticine in Italia. E che effetto ti fece, appunto, quando, non so chi, qualcuno sarà venuto da te a dirti: Massimiliano, ti vogliono in nazionale? C'era il segretario, non arrivava la convocazione. Arrivava, capito? Non è che ti va, ti venga. La società non arrivava, t'hanno un vuoto. C'era il segretario, il bravo Piazzesi, e mi diceva: guarda, se devo andare lì, devo fare. E si partiva da Firenze, poi si partiva, si andava in aereo, e poi quando si era a Parigi non si dormiva mia, si andava a Lirto di Parigi, per dire, no, la nazionale si andava tutti divisa, ecco. Mi ricordo, si andò a Brest, ci dettero l'Ode con il cappello invernale, come si chiama, e si andava a giocare. E comunque te ci dicevi in sede di presentazione che avevi comunque già frequentato la nazionale, perché era la nazionale juniores quando eri juniores. Io ero juniores quando ero a Pisa, però fui convocato per l'juniores e lì andava a Coverciano, si stava lì fissi. E quella era la nazionale juniores professionisti. Che c'era, bravo. Dei professionisti. Perché il Pisa faceva la Serie C. Faceva la Serie C, che c'era Bulgarelli, Cella, Percellino, gente. Percellino era della Juve, Bulgarelli del Bologna, Cella del Torino, insomma c'era gente tutta, e poi Bulgarelli, e fra questi c'era anch'io. E che emozione fa? Essere, cioè, no, quando te lo dissero, sì, proprio la prima volta. La mia soddisfazione mi sembra quando, infatti, io mi mandavo a Pisa, ero la tuta allo stemma del Pisa, e mi ricordo c'era uno della Juventus che mi aveva visto, e quando mi vide mi guardava, come di questo, perché doveva andare a raccontare il fatto. Lui mi vide e dice: questo è lì, mi rimane di essere visto. Sono arrivato uguale anche senza venire da voi. Perché specifichiamo per gli ascoltatori, Lucchesini, e qui correggimi se sbaglio qualcosa, in precedenza era stato contattato dalla Juventus per dei provini. Dei provini, infatti, sì. E difatti poi la Juventus rinunciò per dei motivi della società, era un periodo che non andava tanto e lì mi lasciarono libero. Da lì poi andasti a Pisa. E comunque arrivasti in nazionale. E però arrivai lì, mi onguarano, vuol dire, era entrato in un giro, troppo mi sono rovinato nel crisi. E a proposito di grandi presidenti del passato, a Pisa il presidente era Romeo Anconetani, raccontaci qualche aneddoto di questo grande personaggio. Il Romeo, quello che mi ricordo io, a parte, mi ricordo però se era, quando c'ero io se era presidente, però lui aveva un... che prendeva prima della partita, lo vedevano, andava alle porte, c'aveva il sale, si girava e buttava il sale dietro. Romeo era visto, e poi era un grande, insomma, intenditore di calcio, era uno forse a quei tempi in Italia, mi hanno detto anche la cifra, ma ve la dico, però era uno che guadagnava sui giocatori parecchi soldi. E comunque evidentemente Anconetani era scaramantico, così come la scaramanzia è tipica evidentemente del mondo del calcio. Te avevi qualche rito scaramantico? Perché questa è una domanda che facciamo un po' a tutti gli ex giocatori. Forse, ma io non l'ho visto, i giocatori avevano, per esempio quando era Macerata c'era una guardia, andava nel bagno e mangiava la liquirizia, pregava, aveva tutta la bocca nera, mi ricordo, quello era che faceva. Io forse... ma forse più avanti la partita magari ti mettevi le stesse mutande per dire se sei quello, e poi non c'avevo altro. E invece con Montevarchi ci dicevi sempre prima, mentre presentavamo, discutevamo prima della puntata, con Montevarchi avevi già avuto un rapporto indiretto, perché se non erro, quando giocavi all'Arderello o a Macerata, non mi ricordo, c'era un Montevarchino con te. Ora ti racconto l'Arderello. Io perché sono venuto a Montevarchi? Perché io mi ricordo quando era a Siena, c'era uno che giocava con me all'Arderello, faceva l'allenatore a Certaldo. Allora mi disse: guarda, sto per retrocedere, mi ci vorrebbe una punta. Disse: ascolta, vai a Siena, tanto io mi danno permessi, sono militare, se mi danno io vengo. E lui andò lì e mi dettero un prestito all'Acertardo. Quando venni col Certaldo a Montevarchi, che si vinse, ti dico quanto. 4-0, diciamolo, no, perché ha fatto i gesti con le mani. E purtroppo dico io faccio sempre gol e mi tocco fare anche. Vabbè, te a quei tempi non eri Montevarchino. Professionista è professionista. E da quella volta mi videro, ecco perché. Alla fine è stata la tua fortuna, o comunque un punto di svolta nella tua storia personale, giocare quella partita. Bravo, effettivamente non mi andava. No, diciamo che avanti tu dava una bella scienciata in Montevarchi e poi tu sei venuto a conquistarlo dopo. Infatti venne Parotti, venne a prendere a Siena. In corsa ci venne a novembre e lì cominciò a viaggiare, quelle che ho raccontato prima. Vabbè. E in quei tempi di calcio, di cui anche altri ospiti ci hanno già parlato nelle precedenti puntate, erano tempi in cui non c'erano i procuratori e quindi un calciatore faceva da sé, quindi probabilmente tu avrai trattato con i presidenti di allora e tutto quanto. Ora non parliamo di cifre, non è quello che ci interessa, ma di una storia sì ci interessa, e cioè, quantomeno ci ha molto divertito prima, e quindi ci farebbe piacere la raccontassi anche agli ascoltatori di Radio Big World, vale a dire quando fosti pagato con una damigiana di vino. Famosi quando si faceva tornei estivi, perché io facevo, era romano, si diceva ma non andare a casa si fa tornei, e disse c'è il San Gulme, fanno un torneo, e disse vabbè si farà, e mi ricordo mi mandarono una damigiana di vinacca, oltre magari ci davano anche, però mi mandarono anche una damigiana di vinacca. Era vino buono, insomma, a San Gusmè ci sarà buono il vino, da quelle parti. Mi spiaceva finirlo. Ritornando alla partita al Forlì, io esordì a Pisa col Pesaro. Si vinse 2-1, ma non feci gol. Poi io ero a Forlì, quelli c'era Domenica V, si perse 2-1 e feci gol io. Senti, mi ricordo in mente, madonna. Mentre invece il tuo esordio in Montevarchi, te lo ricordi quando è stato? Madonna, è una domanda per me. Nel 64 quando arrivai, se un quarto libro me lo ricordo. Ma te di quel momento della prima volta che giocaste a Priliperi non ti ricordi? Allora ti dirò di più, io il primo derby l'ho fatto a San Giovanni, ho giocato nel campo vecchio di San Giovanni, non questo di più. Ecco, proprio in relazione al derby e San Giovanni, visto che siamo anche in conclusione di puntata e te evidentemente ne hai giocato qualcuno, raccontaci un po' il giocatore Lucchesini, come viveva quella partita, seppur da pisano diventato montevarchino, e quanto era difficile giocare quella partita? I derby sono difficili perché ora senti anche il clima della città, no? Cosa senti di che ci tieni di più. Poi io avevo anche visto quando magari ero quello che faceva sempre due, era ancora quello più guardato, anzi mi poteva nominare e mi venava ancora. Infatti il famoso detto, stai attento al Cianchi perché il Cianchi ti odia, era un terzino che le menava un pazzo. Vabbè, pazzo. E l'attesa in quegli anni lì della città per il derby com'era? Cioè c'era pressione anche verso i giocatori, c'era tensione in città? Sì, quello lo sentivi prima, insomma, lo sentivi una settimana prima di farlo il derby, che era particolare. E allora, grazie Massimiliano, siamo arrivati veramente questa volta al termine della puntata. Noi ti ringraziamo per la tua presenza qua e per l'intervista che ci hai concesso. Ringraziamo il nostro regista di stasera, ovvero Guy Ricci. Ringraziamo tutti gli ascoltatori di Radio Big World. Ringrazio il mio compagno di volo alla ricerca della montevarchinità, Julian Carax. Grazie a Massimiliano Lucchesini e grazie a tutti per averci ascoltato. Ci sentiamo la prossima settimana. Grazie a voi. Intanto salutiamo anche il regista di stasera, chi è? È che come al solito si è cappellato. Che è Guy Ritchie. Ma lei è un regista? Sì, sì. Pensavo fosse un cantante. È anche un regista. Bene, bene. Cioè, come... Ah, Trary Fo, aspetta, perché è venuto male. Devo anche capire che ti devo mandare, perché c'ho un'idea, però... ma era presente a Montevecchia? No, no, Pisa, no, Pisa, no, era, Pisa, era, Pisa. Dove era il Campo Vecchio a San Giovanni? Ma in dove era il Campo Vecchio a San Giovanni? San Giovanni era in paese. In dove ci si videro per l'ultima volta Osu? In paese, infatti c'è la minima. Ma in dove giocarono quello di Peraccioli? Esatto. Qui, dove, cioè dove giocavano anche per l'inizio? Allora in paese lì. Dovrebbe essere stato nella zona dove c'è la scuola media lì ai Bani, perché i Pieraccioli c'è chi ha detto che lo videro scappare per lungo l'arco, da dietro gli scout, scappò a corsa, era nel bordo dell'arco, insomma un po' davanti, che si chiama Campo Galli o qualcosa del genere. Infatti io pensavo il Galli vecchio campo basket, capito, che fosse dietro nel palazzetto, e invece in realtà era nella zona di Bani, o comunque di Bani, nella zona, cioè, ora, un po' dopo, ecco, diciamo. Quando le squadre sono sotto gli spogliatoi, oh, siamo tutti lì, ci sono i capitani, la terna. Ah, perché la tira, la monetina la tira negli spogliatoi? Una tira in mezzo al campo. La tira in campo. In campo. Ma sì, non è che una squadra esce dagli spogliatoi. No, allora è un mito. No, no, questo tu ci devi raccontarla tutta questa, perché questa non ce la racconta nessuno. Io te dirò che... No, ora quando in trasmissione si richiede di la partita. No, di la partita, questo tu ce lo devi dire. Quello tu ce lo devi dire. No, l'episodio. Se tu ci dici, si tirò la monetina e si vinse. Capito? E si vinse. Però era raccontare quella partita, perché noi non ce l'abbiamo raccontato.